Il terzo anello, ad alta voce. Guerra e pace, di Lev Tolstoi. Allora, un brevissimo riassunto di quanto letto nelle puntate scorse. Dopo il ricevimento a casa di Anna Pavlovna, il romanzo segue le vicende di Pierre e del principe Andrei, che si ritrovano a cena a casa di quest'ultimo. Questi è in conflitto con la giovane moglie che aspetta un bambino, e il motivo del contendere è la guerra imminente. Andrei vuole andare alla guerra soprattutto per sfuggire a un matrimonio infelice, mentre la moglie si preoccupa della solitudine e della reclusione che la aspetterà in campagna. I due amici cenano così, confidandosi i rispettivi crucci, e poi si separano con le raccomandazioni di Andrei a Pierre relative alla sua vita dissipata. Andrei riesce a strappare a Pierre la promessa di non frequentare più alcuni amici dissoluti. Pierre promette però, ma poi non mantiene l'impegno dato. Anzi, va subito dal gruppo di amici tra cui spicca Dolokhov, tra vino, donne e scommesse. Il capitolo successivo si apre nella casa dei conti Rostov, dove si festeggia l'onomastico della contessa e della figlia minore, che hanno entrambe il nome di Natalia. Entrano così in scena alcuni dei personaggi centrali del libro, i due coniugi Rostov e i loro figli, Nikolai, Natasha, Petia, Viera, e poi Boris, il figlio della principessa Drubetskaya, che è amica della contessa Rostov, e infine Sonia, la nipote quindicenne del conte. Quando Natasha fu uscita dal salotto, si mise a correre e giunse alla serra. Lì si fermò, tendendo l'orecchio ai discorsi del salotto e aspettando l'arrivo di Boris. Già cominciava ad impazientirsi quando sentì i passi, né lenti né affrettati, ma dignitosi del giovane. Natasha si gettò in fretta dietro ad alcune cassette di fiori e si nascose. Boris si fermò in mezzo alla stanza, si guardò intorno, levò con un gesto della mano un po' di polvere dalla manica dell'uniforme e si avvicinò allo specchio, esaminando il suo bel viso. Natasha guardava zitta zitta nel suo nascondiglio, aspettando per vedere quel che avrebbe fatto. Egli rimase un po' di tempo davanti allo specchio, sorrise e si avviò verso la porta d'uscita. Natasha voleva chiamarlo, ma poi cambiò idea. «Cerchi pure», disse fra sé. Boris era appena uscito che da un'altra porta entrò Sonia, tutta rossa, mormorando con rabbia qualcosa fra le lacrime. Natasha si ritenne dal seguire il suo primo impulso di correre verso di lei e rimase nel suo nascondiglio, come sotto il cappello fatato che rende invisibili, guardando quel che si faceva nel mondo. Provava un piacere nuovo e particolare. Sonia mormorava qualcosa e si voltava verso la porta del salotto. Dalla porta entrò Nikolai. «Sonia! Ma che hai? Ma è mai possibile?» disse Nikolai correndo verso di lei. «Sonia, una parola. Ma si può tormentare così te e me per una fantasia?» disse Nikolai prendendole una mano. Sonia non ritirò la mano e si mise a piangere. Natasha, senza muoversi e senza fiatare, guardava dal suo nascondiglio con gli occhi sfavillanti. «Che accadrà ora?» pensava. «Sonia, non mi importa nulla di tutto il mondo. Tu sola sei tutto per me», disse Nikolai. «Te lo proverò. Non mi piace che tu parli a quel modo. Non lo farò più, su, perdonami, Sonia». Egli l'attirò a sé e la baciò. «Ah, com'è bello», pensò Natasha. E quando Sonia e Nikolai furono usciti dalla stanza, andò loro dietro e chiamò Boris. «Boris, venite qua», disse, con un'aria significativa e furba. «Vi debbo dire una cosa. Qua, qua», disse, e lo condusse nella serra, in quel posto, dietro alle casse di fiori, dove si era nascosta. Boris, sorridendo, la seguì. A un tratto lei saltò su una cassa, sicché si trovò più alta di lui. Lo cinse con le due braccia e, gettando indietro i capelli con un movimento del capo, lo baciò proprio sulle labbra. Scivolò fra i vasi dall'altra parte dei fiori e si fermò con la testa bassa. «Natasha», disse egli, «voi sapete che vi amo, ma...» «Siete innamorato di me?» l'interruppe Natasha. «Sì, sono innamorato, ma vi prego, non facciamo più come dianzi. Ancora 4 anni. Allora chiederò la vostra mano». Natasha rifletté. 13, 14, 15, 16, disse, contando sulle dita sottili. «Va bene. Allora è deciso?» E un sorriso di gioia e di serenità illuminò il suo volto animato. «È deciso», disse Boris. «Per sempre», disse la fanciulla, «fino alla morte». E prendendolo sotto braccio, con un viso felice, se ne andò pian piano con lui nella stanza dei divani. La contessa era così stanca delle visite che ordinò che non si ricevesse più nessuno. Voleva parlare a quattro occhi con la sua amica d'infanzia, la principessa Anna Mikhailovna. Questa, col suo viso piagnucoloso e simpatico, si avvicinò ancor più alla poltrona della contessa. «Con te sarò assolutamente franca», disse Anna Mikhailovna. «Degli antichi amici ce ne restano così pochi, perciò apprezzo tanto la tua amicizia». Anna Mikhailovna guardò Viera e si fermò. La contessa strinse la mano dell'amica. «Viera», disse la contessa, rivolgendosi alla figlia maggiore, che evidentemente non era la preferita, «come mai non capite nulla? Non senti che sei di troppo qui? Va dalle sorelle, oppure...» La bella Viera sorrise sdegnosamente, ma senza punto sentirsi offesa. «Se me lo aveste detto prima, mammina, sarei andata via subito», disse, e se ne andò nella sua camera. «Ma dunque, a chi ti sei rivolta per Borenka?» domandò la contessa. «Al principe Vassili, è stato molto gentile, ha subito acconsentito a tutto, ne ha riferito all'imperatore», disse la principessa Anna Mikhailovna con entusiasmo, dimenticando tutte le umiliazioni attraverso le quali era passata per raggiungere il suo scopo. «Ma tu sai, Natalie, quanto amo mio figlio. Non so che cosa non farei per la sua felicità, ma le cose mie vanno così male. Non ho, figurati, alla lettera, non ho un soldo e non so come equipaggiare Boris. Spesso penso, forse è peccato», disse la principessa, «spesso penso, ecco, il conte Kirill Vladimirovich Bezukhov vive solo con quell'immensa fortuna. E perché vive? Per lui la vita è di peso. E Boris comincia appena a vivere». «Certamente lascerà qualche cosa a Boris», disse la contessa. «Dio lo sa, cher ami. Questi ricconi e dignitari sono tanto egoisti. Adesso però andrò da lui con Boris e gli dirò francamente come stanno le cose. Lascia che la gente pensi di me quel che vuole. Davvero non me ne importa nulla, quando la sorte di mio figlio dipende da questo». E la principessa si alzò. «Ora sono le 2 e voi pranzate alle 4. Farò a tempo». Anna Mikhailovna si reca dunque a casa del principe Bezukhov, dove trova il principe Vassili, ed è evidentemente sgradita, ma lei ignora le manifestazioni di disappunto del principe e delle principessine nipoti del vecchio Bezukhov, le quali sono anche infastidite dalla presenza in casa del giovane scapestrato Pierre. È in gioco l'eredità cospicua del vecchio principe. Intanto la contessa Rostova chiede al marito i denari per l'equipaggiamento di Boris. Quando Anna Mikhailovna tornò da casa Bezukhov, i denari, tutti i biglietti nuovi, erano già presso la contessa, su un tavolino, coperti col suo fazzoletto, e Anna Mikhailovna si accorse che la contessa era un po' turbata. «Ecco, è per Boris, da parte mia, perché si faccia l'uniforme». Anna Mikhailovna già l'abbracciava e piangeva. La contessa piangeva anch'essa. Piangevano perché erano amiche, perché erano buone, perché compagne d'infanzia dovevano occuparsi di questa cosa bassa che sono i denari, e anche perché la loro giovinezza era passata. Ma le loro lacrime erano dolci. La contessa Rostova, con le figlie e con un gran numero di invitati già giunti, era seduta in salotto. Il conte condusse i signori nel suo studio per mostrar loro la sua collezione di pipe turche. Il discorso si aggirava sulla guerra, che era stata annunziata con un manifesto, e sul reclutamento. Nessuno aveva ancora letto il manifesto, ma tutti sapevano che era comparso. Il conte sedeva sull'ottomana, fra due che fumavano e discorrevano insieme. Il conte non fumava e non discorreva, ma inclinando il capo ora da una parte, ora dall'altra, con evidente piacere guardava i fumatori e ascoltava i discorsi dei suoi vicini, che egli eccitava l'uno contro l'altro. Pierre era giunto poco prima dell'ora di pranzo e sedeva impacciato nel mezzo del salotto, sulla prima poltrona che gli era capitata, impedendo il passaggio a tutti. La contessa voleva farlo parlare, ma egli si guardava ingenuamente intorno, attraverso gli occhiali, come cercando qualcuno, e rispondeva a monosillabi a tutte le domande della contessa. Imbarazzava tutti ed era il solo a non accorgersene. La contessa scambiò un'occhiata con Anna Mikhailovna. Anna Mikhailovna capì che era una preghiera di occuparsi di quel giovane e, sedutasi accanto a lui, cominciò a parlargli del padre, ma anche a lei, come già alla contessa, egli rispondeva soltanto a monosillabi. I camerieri si affaccendavano, le sedie smosse facevano rumore, nella tribuna la musica cominciò a suonare e gli ospiti presero posto. Ai suoni dell'orchestrina privata del conte succedettero i rumori dei coltelli e delle forchette, i discorsi degli invitati, i passi attutiti dei camerieri. A uno dei capi della tavola sedeva la contessa, a destra Maria Dmitrievna, a sinistra Anna Mikhailovna e le altre ospiti. All'altro capo sedeva il conte, che aveva a sinistra il colonnello degli Ussari e a destra gli altri invitati di sesso maschile. Da una parte della lunga tavola era la gioventù più adulta, Viera accanto a Berg, Pierre accanto a Baris e dall'altra parte i ragazzi, i precettori e le governanti. Berg, con un tenue sorriso, diceva a Viera che l'amore non è un sentimento terreno ma divino. Baris nominava al suo nuovo amico Pierre gli invitati che erano a tavola e scambiava occhiate con Natasha che gli sedeva di fronte. Natasha guardava Baris come le ragazzine di 13 anni guardano il giovinetto che hanno baciato allora per la prima volta e del quale sono innamorate. Questo suo medesimo sguardo si rivolgeva qualche volta a Pierre e sotto lo sguardo di quella ragazzina vivace e pronta al riso avrebbe voluto ridere anche lui, senza sapere di che. Nicolai sedeva lontano da Sonia, accanto a Julie Karagina. Sonia aveva un sorriso di parata, ma era visibilmente tormentata dalla gelosia. Ora impallidiva, ora arrossiva e faceva ogni sforzo per sentire quel che dicevano Julie e Nicolai. Qui la cena va avanti e la conversazione ruota attorno alla guerra. Il giovane Nicolai si infiamma, persuaso com'è che i russi debbano combattere per morire o vincere. E la sua passione lo rende seducente sia agli occhi di Julie Karagina che a quelli di Sonia. Finita la cena, gli ospiti del conte si sparpagliano nei salotti e iniziano a giocare a Boston. Natasha si accorge che Sonia è scomparsa e, cercatala, la trova in lacrime. Sonia piange perché è innamorata di Nicolai, che è suo cugino, e teme di non poter aver mai la possibilità di sposarlo. Mentre nel salone dei Rostov si ballava la sesta inglese al suono dell'orchestrina che stonava per la stanchezza e i camerieri e i cuochi, anch'essi stanchi, preparavano la cena, il conte Bezukhov aveva il sesto colpo di apoplessia. I dottori dichiararono che non c'era speranza di guarigione. L'infermo fu confessato e comunicato e si facevano i preparativi per l'estrema unzione e in casa c'erano quel trambusto e quell'ansia dell'attesa che sono soliti in simili momenti. Fuori della casa, al portone, si affollavano, nascondendosi alle persone che sopraggiungevano in carrozza, agenti di pompe funebri che aspettavano delle ricche ordinazioni per i funerali del conte. Il comandante in capo di Mosca, che mandava di continuo i suoi aiutanti a prendere notizie della salute del conte, quella sera era venuto in persona a dare il suo addio a quel famoso dignitario del tempo di Caterina, che era il conte Bezukhov. La magnifica sala di ricevimento era piena. Il principe Vassili, dimagrito e impallidito in quei giorni, accompagnava il comandante in capo e gli ripeté diverse volte qualcosa a bassa voce. Dopo aver accompagnato il governatore, il principe Vassili sedette su una sedia in disparte nel salone, accavallando una gamba sull'altra, poggiò il gomito sul ginocchio e si coprì gli occhi con la mano. Dopo essere rimasto così vario tempo, si alzò e con passi insolitamente frettolosi, guardandosi intorno con occhi spaventati, si avviò per un lungo corridoio verso la parte interna della casa, dalla maggiore delle principessine. Nella stanza regnava la penombra. Soltanto due piccole lampade ardevano innanzi alle immagini e si sentiva un buon odore di essenze bruciate e di fiori. Tutta la camera era piena di piccoli mobili, come chiffonniere, armadietti, tavolini. Dietro a un paravento si vedeva la coperta bianca di un alto letto di piuma. Un cagnolino abbaiò. «Ah, siete voi, mon cousin?» La principessina si alzò e si accomodò i capelli, che aveva sempre e anche ora così straordinariamente lisci da formare come un tutto con la testa e da sembrare coperti di vernice. «È accaduto qualche cosa?» domandò. «Sono già così spaventata.» «Nulla, sempre lo stesso. Io sono venuto soltanto per parlare un poco di affari con te, capisci?» disse il principe, sedendosi stanco sulla poltrona dalla quale ella si era alzata. «Ecco, vedi, mia cara principessina e cugina Caterina Semyonovna», continuò il principe Vassili, non senza una visibile lotta interna, passando al seguito del suo discorso. «Nei momenti come questo bisogna pensare a tutto. Bisogna pensare all'avvenire, a voi. Io voglio bene a tutte voi come a figlie mie, tu lo sai». La principessina lo guardava col medesimo sguardo indifferente e immobile. «Finalmente bisogna pensare anche alla mia famiglia», seguitò il principe Vassili, respingendo con irritazione il tavolino, senza guardarla. «Tu sai, Katish, che voi tre sorelle Mamontov e mia moglie siete le sole eredi dirette del conte. Lo so come ti è penoso parlare di queste cose e anche pensarci. E anche per me non lo è meno. Ma, cara mia, io ho 60 anni. Bisogna essere pronti a tutto. Sai che ho mandato a chiamare Pierre? Che il conte, indicando il suo ritratto, lo voleva assolutamente presso di sé?» Il principe Vassili guardò interrogativamente la principessina, ma non poté capire se ella ponderasse ciò che egli le aveva detto o se semplicemente lo guardasse. «Tu stessa sai che l'inverno passato il conte fece un testamento col quale dava tutta la sua fortuna a Pierre, lasciando da parte i suoi eredi diretti e noi. Ha fatto tanti testamenti», disse tranquillamente la principessina. «Ma in favore di Pierre non poteva far testamento. Pierre è figlio illegittimo». «Ma cher», disse a un tratto il principe Vassili, stringendo a sé il tavolino, animandosi e cominciando a parlare più in fretta. «Ma se c'è una lettera all'imperatore nella quale il conte chiede di legittimare Pierre, capisci? In vista dei servizi resi dal conte, la sua preghiera sarà esaudita». La principessina sorrise, come sorridono le persone che credono di sapere una cosa meglio di coloro con i quali parlano. «E ti dirò di più», seguitò il principe Vassili, prendendole una mano. «La lettera è stata scritta, benché non sia stata ancora mandata, e l'imperatore lo sa. La questione è tutta qui. È stata distrutta o non è stata distrutta? Se non è stata distrutta, appena tutto sarà finito...» E il principe Vassili sospirò, lasciando intendere così che cosa volesse significare con quelle parole «tutto sarà finito». «Si apriranno le carte del conte, il testamento con la lettera sarà mandato all'imperatore e la richiesta di lui sarà certamente esaudita. Pierre, come figlio legittimo, avrà tutto». «Ma la nostra parte?» domandò la principessina sorridendo ironicamente, come se avesse voluto dire che tutto poteva accadere tranne questo. «Ma povere Catiche, c'est clair comme le jour. Lui allora sarà l'unico erede legittimo di tutto e voi non avrete nulla di nulla. Devi assicurarti, mia cara, se il testamento e la lettera sono stati scritti e se sono stati distrutti. E se per qualche motivo sono stati dimenticati, devi sapere dove stanno e trovarli, perché...» «Non ci mancava che questa», interruppe la principessina con un sorriso sardonico e senza mutare l'espressione dello sguardo. «Io sono una donna e secondo voi siamo tutte stupide, ma io so di certo che un figlio illegittimo non può ereditare». «Un bâtard», aggiunse, immaginando con questa traduzione di poter dimostrare definitivamente al principe la infondatezza dei suoi argomenti. «Com'è che non capisci una buona volta, Catiche? Sei così intelligente. Come non capisci che se il conte ha scritto all'imperatore una lettera in cui gli chiede di legittimare il figlio, ne viene di conseguenza che Pierre non sarà più Pierre, ma il conte Bezukhov, e allora avrà tutto per testamento. E se il testamento e la lettera non sono stati distrutti, a te non resterà altro se non la consolazione di essere stata virtuosa. E tu sei chi s'en suit. È una cosa certa». A un tratto dovette farsi un mutamento nelle idee della principessina. Le sue labbra sottili si fecero bianche, e gli occhi rimasero tali e quali, e la voce, mentre cominciava a parlare, era rotta da scatti che lei stessa, evidentemente, non si aspettava. «Sarebbe bella», disse. «Io non volevo e non voglio niente». Spinse giù dalle ginocchia il cagnolino e si accomodò le pieghe del vestito. «Ecco la gratitudine, ecco la riconoscenza verso le persone che gli hanno sacrificato tutto», disse. «Benissimo, molto bello. Io non ho bisogno di nulla, principe». «Sì, ma tu non sei sola. Hai delle sorelle», rispose il principe Vassili. Ma la principessina non lo ascoltava. «Sì, lo sapevo da un pezzo, ma l'avevo dimenticato, che in questa casa non potevo aspettarmi altro che bassezza, inganno, invidia, intrigo, oltre all'ingratitudine, alla più nera delle ingratitudini». «Si è ancora in tempo, amica mia. Ricordati, Catiche, che tutto ciò è stato fatto a caso, in un momento di collera, di malattia, e poi dimenticato. Il nostro dovere, mia cara, è di correggere il suo errore. di addolcire i suoi ultimi istanti non permettendogli di commettere questa ingiustizia, non lasciandolo morire col pensiero di aver fatto del male a quelle persone. «No, mon cousin», disse con un sospiro la principessina. «Mi ricorderò che in questo mondo non bisogna aspettare ricompensa, che in questo mondo non c'è né onore né giustizia. In questo mondo bisogna essere furbe e cattive». «Su, via, tranquillizzati. Io conosco il tuo ottimo cuore». «No, io ho un cuore cattivo». «Io conosco il tuo cuore», ripeté il principe. «Apprezzo la tua amicizia e vorrei che tu fossi della mia stessa opinione. Tranquillizzati e parliamo finché c'è tempo. Forse 24 ore, forse un'ora. Raccontami tutto quello che sai del testamento e soprattutto dove si trova. Tu devi saperlo. Noi ora lo prenderemo e lo mostreremo al conte. Egli di sicuro l'ha già dimenticato e vorrà distruggerlo. Tu capisci che il mio unico desiderio è di adempiere scrupolosamente la sua volontà. Sono venuto per aiutare lui e voi». «Ora ho capito tutto. So di chi è quest'intrigo, lo so», disse la principessina. «La questione non sta qui, anima mia. È stata la vostra protégée, la vostra cara principessa Drubetskaya, Anna Mikhailovna, che non vorrei avere per cameriera, quella odiosa, ignobile donna». «Su, non perdiamo tempo». «Ah, non parlate. L'inverno passato si introdusse qui e disse tante infamie e tante sozzure al conte su tutte noi, specialmente su Sofì. Io non le posso ripetere che il conte se ne ammalò e per 2 settimane non ci volle vedere. In quel tempo, lo so, scrisse quella schifosa, abominevole carta, ma io credevo che quella carta non valesse nulla». «Nous y voilà. Perché non me ne hai detto nulla prima? È nel portafogli di mosaico che egli tiene sotto il guanciale». «Ora lo so», disse la principessina senza rispondere. «Sì, se ho sulla coscienza un peccato, un grosso peccato, è l'odio per quella megera!» gridò quasi la principessina, che si era del tutto mutata. «E perché si è insinuata qui? Ma io le spifferrò tutto, tutto! Verrà il momento!» Guerra e pace di Lev Tolstoi. Traduzione di Enrichetta Carafa d'Andria per le edizioni Einaudi. Una lettura di Sandro Lombardi, musicata da Paolo Terni, a cura di Laura Palmieri. Il terzo anello @rai.it